E ora riprendiamo proprio l'anno speciale in onore di San Giuseppe che ha voluto Papa Francesco proprio quest'anno in occasione dei 150 anni della proclamazione di Papa Pio IX a San Giuseppe come patrono della Chiesa universale. Ed è un capitolo, merita un capitolo a parte questa proclamazione fatta da Papa Pio IX come patrono della Chiesa universale. Nel XIX secolo l'Europa era travagliata da molte ideologie contrarie alla religione e alla fede cattolica, attraversando momenti davvero difficili, tribolati. E proprio in questo tempo di grande prova, in cui la Chiesa era attaccata da ogni parte, era Papa proprio Papa Pio IX. Ricordo che tra il 1866 e 67 alcune leggi del Regno d'Italia, come ben sappiamo, ordinarono la soppressione degli ordini, di molti ordini religiosi e addirittura poi la confisca dei beni alla Chiesa. Quindi la si voleva veramente mettere a tappeto, c'era un attacco frontale alla Chiesa cattolica. E si svolgeva proprio in quegli anni, parliamo del 1869-1870, il Concilio Vaticano I, possiamo dire luce che illuminava il mondo in mezzo alle fitte tenebre del momento. Ma anche qui, cari amici, erano sorte difficoltà, in quanto sia la guerra franco-prussiana che la stagione torrida avevano obbligati molti padri conciliari a ripartire per i loro paesi lontani. Così i padri presenti da 274 si ridussero a 180 e le varie discussioni ecclesiologiche non approdarono a nessun decreto. Inoltre la presa di Roma con la breccia di Porta Pia il 20 settembre del 1870, aperta dalle truppe italiane, che segnava la fine anche della sovranità territoriale del Papa sullo Stato Pontificio, aveva reso la continuazione del Concilio praticamente impossibile. E allora Papa Pio IX, con un decreto, sospese temporaneamente il Concilio Vaticano I, rimandandolo a tempi più propizi. La Chiesa, in effetti, si era venuta a trovare in una posizione molto critica, sia sotto il profilo religioso che politico. Sotto il profilo politico erano molti, lo abbiamo detto, quelli che volevano far cadere il Papa, distruggendo la Chiesa alle fondamenta. E la lotta era veramente forte. E proprio in quell'ora tremenda si pensò che solo San Giuseppe potesse risolvere la situazione. Infatti proprio il Papa, Papa Pio IX, accogliendo i desideri dei padri conciliari, pensate a 49 giorni dalla sospensione del Concilio, esattamente l'8 dicembre del 1870, dichiara e proclama patrono di tutta la Chiesa San Giuseppe. Ma oltre al Papa, anche tutta la comunità ecclesiale, afflitta dall'anticlericalismo del secolo, anticlericalismo veramente feroce, sperava con fiducia che proprio in virtù di questo patrocinio, quindi con l'aiuto di San Giuseppe, con calma potesse appianarsi, diciamo, tutta la situazione, che era, diciamo, piuttosto provata, e riprendere anche con sicurezza la Chiesa stessa a servire Dio in libertà e senza coercizioni. E proprio il documento papale che di seguito riporto espone sia i pregi di San Giuseppe, ma anche i principi dogmatici del suo potente patrocinio. È importante proprio perché riprendiamo quello che è l'anno, come dicevo, voluto da Papa Francesco in onore di San Giuseppe, l'anno speciale proprio dedicato a lui. Dice il documento pontificio del 1870, come Dio aveva cioè del perché è stato fatto patrono della Chiesa. Come Dio aveva costituito quel Giuseppe, figlio del patriarca Giacobbe, governatore di tutta la terra d'Egitto, affinché conservasse per il popolo il frumento, così venuta la pienezza dei tempi, quando stava per inviare in terra il suo figlio unigenito, salvatore del mondo, elesse un altro Giuseppe, cioè San Giuseppe di Nazareth, di cui il primo era figura. Lo fece padrone e principe della sua casa e delle cose sue e custode dei suoi principali tesori. La grandezza della Sacra Famiglia, sappiamo, non era nella ricchezza, al contrario, viveva nella sobrietà più assoluta, ma la ricchezza e la grandezza era avere il figlio di Dio e la Madonna con San Giuseppe in questa casa meravigliosa di cui parte ne abbiamo anche a Loreto. Dice il Papa e continua: egli, San Giuseppe, ebbe per sposa l'Immacolata Vergine Maria, dalla quale per opera dello Spirito Santo nacque nostro Signore Gesù Cristo, che si degnò di essere ritenuto presso gli uomini figlio di Giuseppe, e gli fu suddito. Quindi, naturalmente, obbediva al padre, obbediva a San Giuseppe. Questo Giuseppe, continua il documento papale, non solo vide colui che tanti profeti e re desideravano vedere, ma con esso si trattenne ed abbracciandolo con paterno affetto lo baciò. Inoltre egli con sollecitudine notorì colui che il popolo fedele riceve come pane disceso dal cielo per raggiungere la vita eterna. Per questa sua sublime dignità, che Dio conferì a questo fedelissimo suo servo, la Chiesa ebbe sempre in sommo onore e lode il beatissimo Giuseppe, dopo la Vergine Madre di Dio, sua sposa, e il suo intervento implorò nei momenti difficili. Ora, continua il Papa, poiché in questi tempi tristissimi la stessa Chiesa, da ogni parte attaccata da nemici e talmente oppressa dai più gravi mali, che uomini empi pensarono avere finalmente le porte dell'inferno prevalso contro di lei. Perciò i venerabili, eccellentissimi vescovi e l'universo dei fedeli cattolici inoltrarono al Sommo Pontefice le loro suppliche e quelle dei fedeli, chiedendo che si degnasse costituire San Giuseppe patrono della Chiesa cattolica. E continua ancora il documento. Avendo poi nel Sacro Ecumenico Concilio Vaticano più insistentemente rinnovato le loro domande e i loro voti, il Santissimo Signor nostro Papa Pio IX, costernato per la recentissima e lettuosa condizione di cose, dicevamo era un momento veramente tremendo, per affidare sé e i fedeli tutti al potentissimo patrocinio del Santo Patriarca Giuseppe, volle soddisfare i voti degli eccellentissimi vescovi e solennemente lo dichiarò patrono della Chiesa Cattolica, ingiungendo che la sua festa, ricorrente il 19 di marzo, per l'avanti fosse celebrata con rito doppio di prima classe. È bello qui vedere, cari amici, come questo un po' stupisce e fa piacere, no? Come non solo il Papa pensava, diciamo, a mettere nelle mani di San Giuseppe tutta la Chiesa universale proclamandolo patrono, ma molti padri conciliari e anche moltissimi fedeli. Questa è una cosa davvero bella che, insomma, la speranza è che oggi, come allora, almeno in quel momento, ci si renda conto della grandezza di questo santo, ma lo vedremo ancora tra poco, perché vedremo l'irripetibile presenza di questo santo patriarca che ha avuto una cooperazione nella salvezza di ognuno di noi in modo unico, lo vedremo tra un attimo. Vorrei però, ecco, qui aggiungere ancora un pensiero su questo santo come patrono della Chiesa, cioè come la maternità spirituale della Vergine Maria verso tutti gli uomini, verso ciascuno di noi, non è che il prolungamento della maternità naturale rispetto a Gesù, così la naturale paternità virginale che San Giuseppe esercitò verso Gesù si estende al corpo mistico che è la Chiesa, quindi a ciascuno di noi. La sua protezione, la sua intercessione è offerta a ciascuno di noi, con un calore e un amore unico e incredibile, come ha amato Gesù, ama ognuno di noi. E questo pensiero fra i vari è sostenuto anche da un grande teologo, dal cardinale Léger, che afferma, riferendosi alla Sacra Famiglia, dice così: in quel focolare dove sopra di San Giuseppe, capo di famiglia, vivevano il nuovo Adamo, Gesù, e la nuova Eva, Maria, era racchiusa tutta l'umanità riscattata. Per lo stesso motivo per cui Maria, che era la madre di Cristo e la testa, così Giuseppe, per quella paternità virginale che gli faceva considerare Gesù suo figlio, diveniva padre spirituale di tutti gli uomini del corpo mistico del Signore, cioè di tutta la Chiesa, quindi di ciascuno di noi. Quindi proprio in virtù di quella stessa missione che svolse sulla terra nei confronti di Gesù all'interno della Sacra Famiglia, cari amici, San Giuseppe, possiamo dire senza tema, veglia anche sulla salvezza ed integrità della Chiesa, ma di ciascuno di noi. Soprattutto sulla Chiesa la difende da ogni attacco, respingendo l'assalto dei suoi nemici e conservando l'unità del corpo mistico. E nonostante la grandezza di questo santo, dobbiamo purtroppo dire con dispiacere che Il grande sconosciuto, il capitolo 5, sono il capitolo 5, ho inserito questo titolo perché purtroppo è vero, perché pochi conoscono la grandezza, la preziosità di San Giuseppe. E quanto è stata grande la sua umiltà in terra, tanto sono grandi in cielo, ed è vero, la sua luminosità e la sua gloria. Facciamo insieme una piccola riflessione. Tanti tra i personaggi che allora si muovevano intorno a Gesù, o avevano con lui anche solamente un contatto marginale, restavano chi più chi meno illuminati, conquistati dalla luce divina di Gesù. San Giuseppe invece fu destinato dalla provvidenza ad essere quasi un'ombra intorno al Signore, quasi a celare i raggi di quel sole divino, più a celarli che a illuminarsene, per assorbirli, per farli propri. E spiego. Infatti, come Gesù era il figlio di Dio onnipotente ed eterno, San Giuseppe faceva sì che alla sua ombra il figlio di Dio, cioè Gesù, apparisse come il figlio del falegname, e falegname era anche Gesù. E se Maria, Madre Immacolata, aveva concepito Gesù per opera dello Spirito Santo e quindi generato in maniera virginale, grazie a San Giuseppe, grazie a lui, ella era vista dagli uomini come una madre comune, come se avesse generato quel figlio nel modo comune a tutte le madri. E quando Gesù iniziò la sua predicazione, manifestandosi come il Messia promesso, il Salvatore del mondo, tanto che i discepoli che l'attorniavano erano giustamente fieri di lui, della sua sapienza e della sua potenza, l'ombra di San Giuseppe, nonostante non fosse ancora, non fosse più presente, quest'ombra santa parve ancora proiettarsi, mite e discreta come sempre, sopra il Signore. Infatti i suoi concittadini, stupiti dalla divina sapienza e dai prodigi di Gesù, dei prodigi che operava, si dicevano: da dove mai viene a costui questa sapienza e questi miracoli? Non è egli forse il figlio del carpentiere? Matteo 13, 54-55. Possiamo affermare quindi che la missione di San Giuseppe in terra fu quella di velare il figlio di Dio piuttosto che di illuminarsi di questa vivida luce. Ma per giustizia e premio il nostro San Giuseppe risplende nella sua grandezza accanto al suo Gesù, investendo questa terra di quei raggi divini di cui è stato illuminato, meravigliosa questa cosa, di quella intimità benedetta e santa con il suo figlio, inferiore in misura solo all'intimità di Maria verso Gesù. Noi proviamo solo a immaginare cosa si viveva in quella santissima famiglia. L'amore tra la madre, tra Maria Santissima e Gesù, l'amore tra San Giuseppe e Gesù, che coccolava, aveva in braccio, baciava. Ma voi provate a pensare solo a cosa, alla posizione, no? Al ruolo che ha avuto enorme santo di San Giuseppe. E allora io dico, ricorriamo all'intercessione di questo santo, meritiamocene la protezione provando soprattutto a imitarne le virtù. E fra un attimo ne vedremo alcune. Egli, sono sicuro, cari amici, non ci farà mancare mai nulla del necessario e ci concederà ogni grazia che ritenga giusta alla nostra salvezza e al nostro buon operare nella vita. Ecco, abbiamo visto poco fa che Papa Pio IX, nel documento stilato riguardo a San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, aveva fatto anche una similitudine con l'antico Giuseppe. Allora, parliamo l'antico Giuseppe naturalmente, perché qualcuno lo confonde, ecco un po', lo dico per questo, l'antico Giuseppe è Giuseppe d'Egitto, cioè è il figlio di Giacobbe, Giacobbe era il figlio di Isacco, Isacco era il figlio di Abramo. Ecco, questa era un po', diciamo, la scala per presentare un po' l'antico Giuseppe. E rifacendomi proprio a Giuseppe d'Egitto, in questo caso, cioè all'antico Giuseppe, mi riallaccio a Giacobbe, che era il padre, e poi vi spiego perché. Allora, scrivo: Giacobbe amava il figlio Giuseppe e gli fece confezionare una tunica dai vari colori, come ci dice la Genesi al capitolo 37. Così anche Dio Padre ha amato in modo particolare il nostro San Giuseppe, rispetto agli altri uomini, avendolo predestinato sin dall'eternità ad avere un ruolo fondamentale nel momento in cui il suo figlio doveva venire al mondo. Nello stesso modo dell'antico Giuseppe, Il Signore fece anche al nostro santo un vestito di vari colori, e cioè adornò la sua anima di tutte le più belle virtù. Sempre nella Genesi, l'antico Giuseppe raccontò ai suoi fratelli un sogno che aveva fatto e disse loro: «Noi stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quando ecco il mio covone si alzò e restò diritto, e i vostri covoni vennero intorno e si prostrarono davanti al mio». Gli dissero i suoi fratelli: «Vorrei forse regnare su di noi o ci vorrei dominare?» Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli però non si fermò e fece ancora un altro sogno. Vedete, anche lo stesso sogno, qui parliamo del sogno del vecchio, dell'antico Giuseppe, e poi vedremo il sogno del nuovo Giuseppe, cioè di San Giuseppe. Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole, ma egli non si fermò, fece ancora un altro sogno e lo narrò al padre e ai fratelli e disse: «Ho fatto ancora un sogno, sentite, il sole, la luna e 11 stelle si prostravano davanti a me». E proprio i sogni dell'antico Giuseppe non erano altro, cari amici, che premesse di quanto poi si sarebbe realizzato. In effetti poi lui diventò quello, il salvatore dell'Egitto, anche dei popoli confinanti, no? Ma soprattutto i sogni dell'antico Giuseppe prefiguravano già e ci preparavano al nuovo Giuseppe di Nazaret, al nostro San Giuseppe, al quale dovevano inchinarsi anche gli apostoli, i santi, i fedeli tutti e in un certo senso anche Gesù, raffigurato dal sole e la madre di Dio simboleggiata dalla luna. In effetti la Vergine in ogni momento fu accanto al nostro santo come fedelissima e amatissima sposa, e così fece Gesù. Leggiamo infatti nel Vangelo: «Era loro sottomesso», Luca 2,51. Fu cioè in ogni momento, docilmente e umilmente, soggetto a Giuseppe come figlio amatissimo. E le analogie tra l'antico e il nuovo Giuseppe non sono solo queste. Prendo uno dei grandi santi che noi conosciamo, San Bernardo, il grande devoto e cantore della Vergine Maria, che così propone le somiglianze di vita tra l'antico Giuseppe e lo sposo di Maria. Dice San Bernardo: «Quanto grande sia stato il nostro Giuseppe, lo puoi argomentare da questo. Il Dio ha disposto che egli fosse chiamato e creduto padre di Dio stesso. Lo puoi ancora argomentare dal suo nome, che significa accrescimento, infatti Giuseppe in ebraico vuol dire accrescere. Ricordati pure, dice San Bernardo, di quel grande patriarca venduto in Egitto», qui si riferisce all'antico Giuseppe, «e sappi che questo ha ereditato di quello non soltanto il nome, ma anche la castità, l'innocenza e la grazia». Il primo Giuseppe, venduto per invidia dei fratelli e condotto in Egitto, è figura di Cristo, che fu venduto per tradimento, dice San Bernardo. Il secondo Giuseppe, fuggendo l'ira gelosa di Erode, ha portato in Egitto Gesù Cristo. Il primo, per mantenersi fedele, non ha ceduto alle sollecitazioni della moglie del suo padrone. Questo, rispettando la verginità della sua sposa, madre del suo Signore, e rimanendo egli stesso vergine, la custodì con ogni fedeltà. A quello fu data l'intelligenza per sogni pieni di mistero, a questo, a San Giuseppe, fu dato d'essere il confidente e il cooperatore degli arcani disegni del cielo. Così, conclude San Bernardo, quello, l'antico Giuseppe, ha fatto grandi provviste di frumento non per sé, ma per tutto il popolo. Questo, il nuovo Giuseppe, ha ricevuto in consegna dal cielo il pane vivo che egli doveva conservare non solo per sé, ma per tutto il mondo. Non v'è alcun dubbio che questo nostro Giuseppe, al quale fu dato in sposa la madre del Redentore, sia stato un servo buono, fedele e prudente, che il Signore ha stabilito quale conforto alla madre sua, quale sostegno della sua umiltà, solo cooperatore in terra del grande e arcano suo disegno, l'incarnazione redentrice. Ebbene, cari amici, la Chiesa, i Santi, ci dicono di quanto questo grande patriarca sia in cielo, al di sopra di tutti gli altri Santi. Possiamo ricavare da questa sua sublime glorificazione il meritato premio per quella meravigliosa umiltà e modestia, tanto grandi che sulla terra lo fecero vivere silenzioso, nascosto e, dobbiamo dirlo, quasi ignorato da tutti. A San Giovanni Battista Dio affidò la missione di precursore di Cristo e quindi l'annuncio del Messia al popolo ebraico. Al collegio apostolico aveva assegnato il compito di predicare e di manifestare a tutto il mondo gli insegnamenti di Gesù. A San Giuseppe, invece, Dio dona l'incarico di nascondere Gesù, coprendolo della sua ombra e circondando come di fittissima notte il mistero dell'incarnazione, in modo da occultare agli uomini il vero essere di Gesù, almeno fino al momento in cui l'Eterno Padre non avesse ritenuto opportuno svelarlo, naturalmente fino a quando lui non avesse poi compiuto i 30 anni, quindi iniziava la sua missione. Ma questo poi ci sarà confermato anche da alcuni santi. Ma tornando a noi, per quanto la missione del nostro San Giuseppe sia solo di nascondimento, non per questo è meno grande, al contrario, suppone da parte del Signore una stima profondissima, un alto concetto ed un'enorme fiducia nella fedeltà di quest'uomo, di questo santissimo uomo. Anche Papa Pio XI rivelò in un suo discorso questo: che cosa era, è stato ed è nel concetto della Santissima Trinità quest'uomo, in che luce era veduto, di quale fiducia onorato, reputato degno o fatto degno a forza di grazie, di privilegi, di tutti quei doni necessari appunto per ricevere tale fiducia. E la grande liberalità di Dio, e per così dire il meno che Dio possa fare quando Egli vuole conferire grandi favori, commisura appunto ad essi le sue grazie. E per fare ancora meglio risaltare la grandezza tutta particolare di questa missione unica e ripetibile di San Giuseppe, sempre Papa Pio XI, confrontandola con i compiti pure grandi di San Giovanni Battista e San Pietro, disse: «Fatto suggestivo il veder sorgere e brillare quasi contemporaneamente figure così magnifiche. San Giovanni Battista che si leva dal deserto con la sua voce talvolta tonante e talvolta soave, come il leone che ruggisce e come l'amico dello sposo che si rallegra della gloria dello sposo per offrire al mondo la meravigliosa gloria del martirio. Pietro, che si sente dire dal Divin Maestro queste sublimi parole, pronunciate al mondo e ai secoli, tu sei Pietro e su questa pietra io fonderò la mia Chiesa, andate e predicate al mondo intero, missione grandiosa, dice il Papa, divinamente splendida. Tra queste due missioni, dice Pio XI, appare quella di San Giuseppe, missione raccolta, tacita, quasi inavvertita, sconosciuta, che non doveva illuminarsi altro che qualche secolo più tardi. Un silenzio al quale doveva succedere senza dubbio, ma molto più tardi, un risonante canto di gloria. E infatti, ove più profondo è il mistero, più spessa la notte che lo ricopre, più brillante il silenzio, è giustamente là che è più grande la missione, più brillante l'insieme delle virtù richieste, dei meriti chiamati per una felice necessità a far loro eco. Missione unica, altissima quella di custodire la verginità, la santità di Maria. Missione unica, dice Pio XI, quella di entrare in partecipazione del grande mistero nascosto agli occhi dei secoli, di cooperare così all'incarnazione e alla redenzione. E tutta la santità di Giuseppe, dice il Papa, sta precisamente nel compimento, fedele fino allo scrupolo, di questa missione sì grande e sì umile, sì alta e sì nascosta, sì splendente e così circondata di tenebra. E qui, cari amici, veramente riprendendo proprio le ultime parole di Papa Pio XI, quando parla riguardo a San Giuseppe di una missione unica, altissima, quella di custodire la verginità, la santità di Maria, missione unica quella di entrare in partecipazione del grande mistero, è roba da farsi tremare davvero i polsi, perché se ci pensiamo un attimo, da lì nasce la redenzione di ognuno di noi. Quindi una enorme, immane responsabilità. In mani grazie, grandissime grazie anche. Ma vorrei tornare un attimo a quello che era allora, partiamo prima della nascita di Gesù, l'attesa del popolo ebraico. Infatti allora era prossimo il tempo predetto dai profeti e ognuno in Israele era in grande trepidazione per l'arrivato del sospirato Messia, che che avrebbe dovuto, secondo Israele, radunare i più forti della nazione, liberare così questa terra dalla schiavitù, o meglio dall'autorità di Roma, e dopo di ciò partire alla conquista del mondo. Erano decisamente ambiziose, di grande portata, le speranze di questo popolo. E sicuramente molte donne ebree in cuor loro nutrivano almeno una piccola speranza di essere le prescelte per diventare madri del Messia. È facile anche immaginare quante di loro si siano affrettate a concludere il matrimonio, oppure, per chi era già sposata, maturare internamente il desiderio di avere una prole numerosa, così da avere buone possibilità di annoverare tra i propri figli il Salvatore promesso. Allora, in effetti, la donna vedova, oppure quella senza figli, era, diciamo, è triste dirlo, ma era commiserata. Parlando poi della verginità perpetua, essa non era né apprezzata né ambita. Ci si chiedeva infatti come una vergine avrebbe potuto essere la madre del Messia. Allora era inconcepibile, cioè umanamente non sarebbe stato possibile. E questi erano i pensieri ricorrenti di quel momento, ma, cari amici, come spesso accade, molto spesso, i pensieri di Dio sono diametralmente opposti ai nostri. E ci aiuta a capire l'annuncio che il Signore detta al profeta Isaia, Isaia 7,14. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e lo chiamerà Emanuele, ossia Dio con noi. E un'altra conferma ci viene data proprio da Giuseppe, che abbiamo visto dell'Antico Testamento, che nessuno, ma nessuno avrebbe mai immaginato diventasse addirittura il salvatore del popolo egiziano, anche dei popoli limitrofi, se solo pensiamo che il cammino iniziale per giungere a questo traguardo è iniziato nella cella di una prigione. Voi immaginate, era stato venduto dai fratelli e poi portato schiavo in Egitto, quindi era inimmaginabile un processo di questo tipo. A volte, scrivo, sembra che nel governare il mondo Dio operi al contrario di come secondo noi sembrerebbe logico, usando poi tante volte strumenti e mezzi che all'apparenza sembrano essere insufficienti. Ritornando a noi, vediamo che la madre del Messia doveva essere una vergine che il Signore stava preparando e coltivando gelosamente come un candido giglio in un chiuso giardino. E questo bellissimo fiore, questo fiore unico e meraviglioso, non poteva restare solo. Al suo fianco era necessario che ci fosse uno sposo, casto anch'egli, e così al candido giglio se ne aggiungeva un altro per compiere la santa volontà di Dio. Arrivato quindi il momento che il Signore aveva decretato, sempre Dio congiunse i suoi tesori con il vincolo meraviglioso del più puro amore. Era, cari amici, il matrimonio della purezza, il connubio della verginità. Giunto il momento atteso da secoli, per virtù dello Spirito Santo, scese il Paraclito e la verginità si rese feconda, di una fecondità prodigiosa, unica. È così che il Signore ci ricorda di confidare sempre solo in Lui, di non sostenerci solo sul nostro sapere o sulle nostre forze. Nulla è impossibile a Dio. Nell'ordine naturale la verginità non genera, la purezza è infeconda. Ma in quello soprannaturale, nel regno spirituale, avviene esattamente l'opposto, ed è così che la verginità genera, la purezza diviene feconda, e quanto più si è puri, tanto più si è fecondi. E concludo questo capitolo citando un altro grande santo che conosciamo, San Francesco di Sales. Dice così: quanto saremmo felici se potessimo meritare di avere parte alla santa intercessione di Giuseppe, perché nulla a lui sarà negato, né da Maria Santissima, né da suo figlio divino. Egli ci otterrà, se in lui confideremo, un santo incremento di ogni virtù, ma specialmente di quelle che egli possedeva in più alto grado, quali sono la santissima purità di cuore e di spirito, l'amabilissima virtù dell'umiltà, la costanza e la perseveranza, virtù, dice San Francesco di Sales, virtù che ci rendono vittoriosi dei nostri nemici in questa vita e degni di andare a godere nella vita eterna la ricompensa preparata a quanti imiteranno i suoi esempi. E arriviamo ora, cari amici, proprio al matrimonio. Parliamo del matrimonio tra la Vergine Maria e San Giuseppe. E ci aiuta qui anche poi, tra un attimo, San Tommaso d'Aquino, questo grande teologo domenicano che conosciamo bene. Il matrimonio allora veniva celebrato in due tempi, come sappiamo. Prima si stipulavano gli sponsali, che non coincidevano con quello che noi oggi chiamiamo consenso, ma erano una celebrazione vera e propria del matrimonio. Gli sposi erano considerati tali a tutti gli effetti civili, anche se restavano nelle rispettive dimore paterne per un po' di tempo, per circa un anno. Quindi, a distanza di circa un anno da quel giorno, aveva poi luogo una festa nuziale che si svolgeva con un corteo che accompagnava la sposa a casa dello sposo, e qui si teneva un banchetto che molto spesso durava anche molti giorni. E San Matteo conferma indirettamente questa usanza quando leggiamo Matteo capitolo 1, 18-20, dice: «Essendo Maria fidanzata a Giuseppe, prima che fossero venuti ad abitare insieme, si trovò che ella aveva concepito per opera dello Spirito Santo». Di fronte al misterioso concepimento, Giuseppe, essendo giusto e non volendo esporla all'infamia, decise di lasciarla segretamente. Ma poi, rassicurato in sogno dall'angelo, condusse presso di sé la sua sposa. Tra un attimo approfondiremo questa parte che è fondamentale, secondo me, per comprendere San Giuseppe, per comprenderlo in modo pieno, e ci aiuterà in modo chiaro San Tommaso a capirla. Vi dico però che da secoli anche, sempre riguardo al matrimonio di Maria Santissima e San Giuseppe, da secoli la tradizione ci tramanda che l'anello sponsale tra Maria e Giuseppe, formato da una pietra d'ametista, fu portato in Italia nel secolo XI da un ebreo di Gerusalemme che lo vendette alla contessa Giuditta, moglie di Ugo Chiusi, e poi da lei passò in possesso alla città di Perugia per concessione di Papa Innocenzo VIII nel 1286. Proprio in questa bellissima città si trova tuttora dentro una preziosissima teca in una splendida cappella del Duomo ed è venerato con grande devozione non solo dai perugini ma anche dai tanti pellegrini che si recano lì da ogni parte del mondo. Ma ecco, riguardo al matrimonio tra Maria e Giuseppe, San Tommaso d'Aquino ci fa capire perché era importante ed era conveniente, come dice lui, nel senso che andava fatta, andava fatto. E egli scrive così: si giustifica la decisione di Giuseppe di tenere con sé Maria per questi motivi. Quindi, partendo dal primo motivo, San Tommaso ci illustra perché San Giuseppe ha accolto l'invito dell'angelo, quando ha sognato l'angelo, e ha accolto questo invito. Allora, ricomincio, scrive San Tommaso d'Aquino: si giustifica la decisione di Giuseppe di tenere con sé Maria per questi motivi. Per Cristo, affinché non fosse ritenuto illegittimo, perché difficilmente la mentalità di allora, e soprattutto quella pagana, avrebbe accettato l'idea di un figlio nato da una vergine madre. E soprattutto perché il Figlio di Dio, venuto per essere uomo dei dolori, per essere offerto in sacrificio al Padre, fosse celato al demonio, cioè fosse nascosto al demonio, ai suoi nemici, affinché il demonio non accumulasse sul suo capo quanto poteva essere di impedimento all'opera della redenzione. Quindi era bene, come dice San Tommaso, che Gesù fosse, nascosto fino a quando non avesse poi iniziato la sua missione nel mondo a 30 anni. E continua San Tommaso: anche perché, affinché anche Cristo avesse una difesa, ecco il Padre Vergine erigesse al suo fianco, affinché fosse nutrito, ecco il Padre lavorare per lui. La seconda ragione teologica che San Tommaso ci espone sempre in merito a questo matrimonio, e cioè che fosse necessario porre al fianco di Maria uno sposo, un uomo giusto, lui scrive così: Maria, senza essere unita in matrimonio, sarebbe stata considerata un'adultera e dopo la nascita del figlio tutti l'avrebbero esposta all'udibrio, all'infamia e secondo la legge ebraica sarebbe stata lapidata. Il disegno divino, dice San Tommaso, presupponeva che il mistero dell'incarnazione si doveva manifestare gratuitamente agli uomini e San Giuseppe funse come un velo per coprire temporaneamente il divino prodigio della concezione soprannaturale e del parto virginio di Maria. Ora io faccio con voi una riflessione. Proviamo a immaginare per un attimo che San Giuseppe, proviamo a immaginarlo per un attimo, se San Giuseppe non avesse accolto l'invito dell'angelo, cosa sarebbe successo? Quello che ci dice San Tommaso d'Aquino. Da qui ricaviamo la grandezza unica, enorme, immensa di questo santo. Qui è la vera radice della presenza di San Giuseppe. Io direi minimo è un cooperatore alla redenzione. Continua ancora San Tommaso d'Aquino. Inoltre, la Vergine Madre, povera ed umile serva del Signore, non avrebbe potuto far fronte da sola ai bisogni materiali, alimentari e alle esigenze in genere della vita. La provvidenza divina, così sollecita nel circondare le più umili creature di quanto occorra ad esse, non ha potuto negare a Maria tutti gli aiuti che le sono necessari per compiere la sua missione di madre del Verbo incarnato. Quale aiuto più indispensabile se non quello di avere presente vicino, sollecito, amoroso, uno sposo degno di lei? Quindi anche se col sacrificio, col sudore della fronte nella prova, comunque San Giuseppe ha sempre, diciamo, portato il pane a casa, sostenuto la sua santa famiglia. E infine l'ultima ragione che sempre San Tommaso ci presenta riguardo a questo matrimonio è proprio relativa, pensate, alla nostra necessità, nostra, di ognuno di noi, di avere un testimonio umano per provarci la feconda verginità di Maria. San Giuseppe, vero sposo di Maria, è il primo testimone di questo grande mistero. Basta rileggere attentamente l'episodio di Giuseppe, deciso ad abbandonare la sua sposa, come ci riporta Matteo, capitolo 1, 19-21. E renderemmo sicuramente incompleta, limitata la loro unione, cari amici, se considerassimo però, da una parte la Madonna che ama Giuseppe solo come protettore, oppure come un'ombra capace di coprire agli occhi degli uomini quello che stava per compiersi nel suo santissimo grembo, oppure dall'altra vedere Giuseppe che ama Maria come un onesto tutore può amare una pupilla affidata alla sua vigilanza. Non è così, come vedremo tra un attimo. Ecco, cari amici, riprendiamo proprio questa parte che è molto importante, anche perché è importante chiarirla. E riprendo proprio sotto questo aspetto quello che scrive un grandissimo teologo, Guitton. Dice: per quale motivo Giuseppe non avrebbe amato Maria? Cioè, quale sarebbe stato il motivo? Per quale motivo, dice Guitton, il suo cuore, il cuore di San Giuseppe, non sarebbe stato contraccambiato da lei? Per quale motivo non avrebbe desiderato e poi indovinato in lei, che incontrava nella pace e della stanchezza delle sere, un amore rispondente al suo? Giuseppe invece ha potuto conoscere un amore assoluto, inesprimibile, selvaggio come un torrente, calmo, tiepido e chiaro come un lago fresco, come le sorgenti. Aveva senza dubbio, dice Guitton, la percezione dell'affinità di quella fanciulla con la sua anima e quella di una superiorità di lei nei suoi confronti. L'amore dell'uomo si modella su quello della donna, che è silenziosa educatrice dello slancio virile. Maria, continua Guitton, verginizzò Giuseppe come in seguito avrebbe dovuto verginizzare tanti giovani col suo sorriso, e cioè quella stirpe sacerdotale che deve al suo esempio la capacità di conservare in questo mondo con facilità il mistero della verginità virile. Che bella frase! Ella, dice Guitton, ella infatti non tolse il vigore al suo sposo, lo slancio, l'ardore, non diminuì la propria capacità e quella del suo Giuseppe di donare e di ricevere manifestazioni di tenerezza santa. Fu in questo clima di mutuo amore vergine, vero, reale, che Maria e Giuseppe si scambiarono davanti al testimone del loro sposalizio e nell'adempimento del rito degli sponsali promessa di amore eterno e contemporaneamente promessa perpetua di verginità. Sono frasi bellissime, cari amici, e io dico c'è di essere ammirati davanti a questi meravigliosi sposi che per volontà di Dio si sono uniti in matrimonio e subito si sono compresi felici di poter vivere insieme come il Signore aveva progettato per entrambi, nonostante le grandi prove a cui sapevano bene sarebbero andati incontro. e la mano di San Giuseppe che avrebbe, possiamo ben dirlo, avrebbe potuto sostenere con grande dignità lo scettro di Salomone o la spada di Davide, visto che era discendente di Davide, non disdegna invece di usare con carità, con umiltà, la pialla oppure il martello, anzi raddoppia i suoi sforzi ora che è il felice incarico di sostenere la sua sposa, Maria, che ama moltissimo, che sarebbe stata degna di sedere sul trono di Israele, e invece questa madre meravigliosa si delizia di sedere su una rozza panca e attende con grande umiltà alle faccende di casa, gioiosa nel suo cuore di avere il suo sposo da amare, questo sposo meraviglioso a cui donare il suo affetto e il suo amore puro di madre vergine. E vorrei condividere con voi questa, possiamo dire che fra i tanti bellissimi titoli, no, con i quali la Chiesa invoca San Giuseppe, in virtù di quello che abbiamo appena letto, abbiamo detto, possiamo certamente affermare che il più glorioso è proprio quello all'inizio delle litanie in suo onore, cioè sposo della Madre di Dio, no? E questo titolo, cari amici, è la sorgente prima di tutta la grandezza di questo santo. Infatti, tutte le grazie che il Signore gli elargì prima del suo matrimonio con Maria Santissima non avevano altro scopo che quello di renderlo degno, come fu un giorno, di essere suo sposo. E tutti i doni celesti che Dio riversò nella sua anima dopo questo matrimonio furono in parte il frutto e l'effetto della sua intima unione con la Vergine Maria. E sempre San Francesco di Sales, che era devotissimo a San Giuseppe, afferma a questo proposito: Maria possedeva tutte le virtù in un grado così alto che nessuna creatura avrebbe potuto uguagliarla. San Giuseppe, tuttavia, era quello che le si avvicinava di più. Se mettete uno specchio di fronte al sole, dice San Francesco di Sales, esso riceve la perfezione e i raggi solari. Ponetene un altro di fronte a questo specchio e sebbene esso riceve i raggi per riflesso o per riverbero, li riproduce però così vivamente che non si può quasi distinguere la fonte che riceve i raggi direttamente dal sole da quella che li riceve per riflesso. La Madonna è come un purissimo specchio esposto ai raggi del sole di giustizia, parliamo di Gesù, raggi che apportano all'anima sua tutte le virtù nella loro perfezione, le quali si riflettono così perfettamente in San Giuseppe da sembrare quasi che egli avesse le virtù in un grado così alto come le possedeva la Vergine Gloriosa. Questo ci dice San Francesco di Sales. E possiamo dire proprio che l'intima unione di San Giuseppe con Maria non era costituita esclusivamente da quei dolcissimi vincoli di un matrimonio virginale, ma consisteva anche nella dedizione totale, possiamo dire di mente e di cuore, con cui San Giuseppe si era consacrato alla Madonna e nell'amore ardente e purissimo con il quale Maria Santissima ricambiava il suo sposo. San Giuseppe si era, questo giovane, San Giuseppe, si era donato a Maria senza riserva alcuna, si era votato totalmente e consacrato a lei diventando così il suo primo sincero devoto, in quanto sappiamo la persona devota è appunto colei che si dedica al servizio e all'amore dell'amato, vuole solo il bene dell'amato e è innamorata dell'amato ed è felice quando l'amato è nella gioia. Possiamo dire che la devozione di San Giuseppe verso Maria Santissima fu enorme, tale che non sarà mai eguagliata da quella di nessun altro santo. Fu superata solamente dall'amore e dalla dedizione che Gesù ebbe per questa sua dolcissima madre. E ricordando infine le affermazioni proprio di San Francesco di Sales, la tenera devozione e l'intima unione di Giuseppe nei confronti di Maria lo resero strettamente partecipe della santità, delle grazie e dei privilegi di lei. Concludo dicendo, da parte nostra quindi non vi è mezzo più straordinario per poter essere ammessi alla dolce presenza di Maria e alla sua deliziosa intimità materna, se non proprio per mezzo di San Giuseppe. La Madonna appartiene a San Giuseppe proprio come la sposa appartiene allo sposo, al quale si è donata interamente insieme a tutto quello che possiede. Ecco, iniziamo con le telefonate. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera Angelo. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Io inizio facendo due premesse. Cioè, la prima è che non sono papà e questa è la prima premessa. E la seconda premessa è che fare il genitore è il mestiere più difficile del mondo, no? Io ho letto su un libro di Don Giuseppe Militello, che è un sacerdote che parla anche a Radio Maria il giovedì sacerdotale, la vita di San Giuseppe, no? E Don Giuseppe Militello diceva questo, cioè che la crescita di Gesù in sapienza, età e grazia avvenne nella Santa Famiglia di Nazareth sotto gli occhi di Giuseppe, che aveva l'alto compito di allevare, cioè di nutrire, di vestire, di istruire Gesù nella legge e in un mestiere. Ora io volevo chiedere questo: secondo lei gli uomini contemporanei che hanno avuto da Dio il dono di un figlio e della, o di una figlia e della patria potestà, hanno ancora radicati nei loro cuori questi valori, questi doveri assegnati al padre, cioè di nutrire, di vestire, di insegnare la legge e di insegnare un mestiere? Grazie, l'ascolto per radio. Sì, volentieri. Dunque, naturalmente concordo in pieno con quello che ha detto Don Giuseppe Militello, perché in effetti è così per quanto riguarda San Giuseppe. Per quanto riguarda quello che le chiedeva, sono d'accordo con lei, giustamente anche i padri, soprattutto oggi, hanno il dovere di crescere, di aiutare i figli e crescere nel modo più santo possibile. Soprattutto la grande responsabilità che hanno i padri oggi, e anch'io sono padre, quindi mi rendo conto di questo, la più grande responsabilità che abbiamo di fronte a Dio è crescere e cercare, perlomeno, di crescere i figli nella fede. Certamente la vita poi darà tante prove anche a loro, e quindi sappiamo che a un certo punto i ragazzi corrono il rischio di allontanarsi o quant'altro, soprattutto oggi, poi non ne parliamo. Però io dico, l'esempio dato in famiglia, la preghiera soprattutto per i figli e la preghiera con i figli, dove è possibile, è un grande aiuto, è un grande cemento per aiutare ognuno, ogni parte della famiglia a procedere sul sentiero che il Signore ci ha messo davanti, ci ha indicato. Però ribadisco, abbiamo il dovere di aiutare, come no, di aiutare i figli insegnando a loro i valori santi che il Signore ci ha donato da sempre. La nostra più grande responsabilità come padri, sia carnali che spirituali, è quella di dare tutto, di fare tutto il possibile per donare la fede ai nostri figli. Quella è una responsabilità grande nei confronti di Dio, che ognuno di noi ha. Grazie, grazie per la telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono dalla Puglia che telefono. Sì, come ti chiami? Mi chiamo Mario. Volevo chiedere, io ho avuto come amico Don Tonino Bello, che ha scritto anche un libro su San Giuseppe. Sì. Come mai per San Giuseppe non c'è questa tanta devozione come non so che meriterebbe? Sì. Come non so Padre Pio, non sì, c'è sì, questa devozione, è strano però. Sì, sì, ma guardi Mario, è vero, è molto vero, infatti noi stiamo facendo queste trasmissioni anche per farlo conoscere, soprattutto in virtù dell'anno speciale indetto da Papa Francesco, no? È un anno particolarissimo nelle quali veramente San Giuseppe attende proprio che gli chiediamo le grazie perché ce le possa donare, le possa intercedere per noi. Proprio in quest'anno particolare, lo ribadisco, c'è una grande attenzione nei confronti di questo santo. Io sono convinto che il Signore ce ne darà tante di grazie per mezzo suo, per mezzo di questo di San Giuseppe. Certo, è poco conosciuto, perché si parla poco di lui, ma in effetti, come vedete, non abbiamo la possibilità di avere la vita di San Giuseppe perché si dicono due parole nel Vangelo, quindi, ma abbiamo tanti documenti dei papi, dei santi, noi ne vedremo ancora di bellissimi, i santi stessi, vedremo San Giuseppe come patrono dei lavoratori, vedremo quello che la Chiesa ha fatto, e tante cose, ci sono anche delle apparizioni di San Giuseppe, qualcuna riconosciuta dalla Chiesa che poi vedremo insieme. Bisognerebbe, ecco, cercare di pian piano di renderlo più noto a tantissime persone. Guardate, vi dico, lo ribadisco, come diceva Santa Teresa d'Avila, no? Dice, provate per farne la prova, provate per vedere se è vero. La vera devozione a San Giuseppe porta tantissime grazie. Io dico, abbiamo un grande tesoro in banca, ma non lo usiamo. Questa è la... Quindi anche Radio Maria, nel suo piccolo grande, porta questa figura alla conoscenza di più persone possibili. Ma amiamolo, vogliamogli bene, adesso cerchiamo di farlo da qui, partiamo da qua, ognuno di noi può portarlo a tantissime altre persone, perché veramente è un santo che merita, lo avete visto anche stasera, è unico, meraviglioso, immenso, veramente grande. Bene, io penso che non abbiamo più tempo forse, Marco, perché poi tra un po' c'è il Santo Rosario, e volevo, ecco, solo a Dio piacendo ci risentiremo il primo lunedì di agosto e continuiamo su questa figura di San Giuseppe. E vi ricordo il titolo, il libro che ho scritto, se desiderato potete prenderlo, dal quale facciamo poi le nostre catechesi, che è San Giuseppe, la tenerezza di Dio, l'ho scritto il sottoscritto, le edizioni sono le edizioni su Garco, quindi potete richiederlo o andare ad acquistarlo in libreria o su Amazon o quant'altro. Io vi ringrazio di cuore. L'invito ancora una volta che vi faccio è: amiamo San Giuseppe, veramente preghiamolo e facciamolo conoscere, questo sarà un premio anche per ciascuno di noi, guardate, nulla è a vuoto, quando si fa una cosa per un santo di questo calibro, nulla viene perduto, vi assicuro nulla viene perduto. Un abbraccio a tutti e buon mese di luglio da parte mia e grazie anche a Marco per averci seguito da Erba. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.